Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Solite informazioni di servizio. La mail è unabusoalgiorno@radio24.it. Il mio blog è Guardie o Ladri. Lo trovate con un motore di ricerca o sull'home page del Sole 24 Ore. Alcuni mi hanno scritto dicendomi: non lo troviamo. Poi ho scoperto il motivo. Non è guardie e ladri, ma guardie o ladri. La differenza è sostanziale. Ma comunque, se andate sull'home page del Sole, lo trovate subito a metà pagina. Allora, terza informazione di servizio, ricordatevi che potete scaricare dal sito di Radio 24 tutte le puntate, non soltanto del mio programma, ma anche di tutti gli altri programmi di Radio 24. Come sapete, sono tutti estremamente interessanti. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo di sanità e misteri. Poi, alla fine di questa puntata, capirete il perché. Sanità in Campania. Campania, come lo sapete, c'è un buco gigantesco, enorme, che potrebbe divorare un intero continente. Non si sa neppure quale sia il debito della regione Campania sul fronte sanitario. Miliardi, comunque, stiamo parlando di una gestione che negli anni, senza guardare destra o sinistra, che a me non interessa, è stata a dir poco deficitaria, con servizi poi tagliati ai cittadini. Sapete che io me ne occupo abbastanza spesso di questi temi. Allora, fra le tante chicche che però sono il sintomo, la spia di un malessere generale, io ne ho trovata una che è riferibile al solito Enzo Rivellini. Perché dico il solito Enzo Rivellini? Perché Enzo Rivellini, ex capogruppo di Alleanza Nazionale in Regione Campania, oggi nel Partito delle Libertà, è volato, se ne è andato a Bruxelles, è diventato eurodeputato, ma ovviamente continua ad avere un occhio molto attento sulla sua regione, con un comunicato stampa che è passato inosservato alla stampa nazionale, non a quella locale, racconta uno scandalo che definisce fantozziano. Allora, Rivellini, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, ci racconta di questo scandalo fantozziano in Regione Campania, così almeno lasciamo un attimo di suspense ai nostri radioascoltatori e lei li accompagna in questo racconto. Allora, qual è la storia fantozziana? La storia fantozziana è che esiste un ospedale al centro di Napoli, gli incurabili, con un pronto soccorso. Se un cittadino ha un lieve incidente e si reca al pronto soccorso degli incurabili e ha bisogno di una TAC, poiché non c'è il neuroradiologo, lui viene dopo la TAC, aspetta nella sala d'aspetto, e questo esame, questa TAC, viene consegnata ad un infermiere, perché è un documento sensibile, quindi bisogna consegnarlo ad un infermiere, cioè a un incaricato della sanità. L'infermiere sale su un'autoambulanza, perché non lo può portare con un tassì. Questa autoambulanza, con autista e infermiere, con la TAC, attraversa tutta la città, ripeto, la città di Napoli, che notoriamente per il traffico non è certamente una città dalla viabilità facile, va dall'altra parte della città, all'ospedale San Giovanni Bosco, della stessa ASL degli incurabili, dove un neuroradiologo, nel caso non stesse operando o facendo altro, vede la TAC, fa il referto, la riconsegna all'infermiere, che nel frattempo è in attesa. L'infermiere risale sull'autoambulanza, sempre del Servizio Sanitario Nazionale, l'autoambulanza con l'infermiere, l'autista e la TAC fa il ritorno agli incurabili, dove nel frattempo il paziente è in attesa nella sala d'aspetto e finalmente avrà il suo resoconto finale di che cosa soffre. Allora, da ridere non c'è niente, anche se la prima sensazione che io ho provato nel leggerlo è stato proprio quello di sorridere, non dico di ridere, perché chiaramente stiamo parlando di soggetti, di persone che si sottopongono a delle tomografie assiali computerizzate, vale a dire le TAC, perché soffrono, credono di comunque avere delle patologie, quindi da ridere non c'è nulla, però è veramente una vicenda fantozziana. Cioè, io prendo la TAC, salgo sull'ambulanza con l'infermiere a seguito, attraverso la città, faccio vedere questa TAC al neuroradiologo, che mi riconsegna la TAC e riattraverso la città, tutto questo con un enorme spreco di tempo, spreco di denaro e a me sembra veramente una storia incredibile. Ma Rivellini, una domanda stupida, cretina, lei mi dica pure che sono un deficiente, non mi offendo, ma non si potrebbe avere lì un aeroradiologo oppure spedire questi dati per via telematica? Voglio dire, oggi con un BlackBerry si mandano i film, è possibile che non è possibile mandare un attacco da un capo all'altro della città? Guardi che io ho scritto più volte all'ex assessore alla sanità, all'attuale assessore alla sanità e anche al subcommissario che è stato mandato dal mio governo, quindi come lei giustamente ha detto non guardiamo in faccia a nessuno, né a destra né certo. a sinistra, per evidenziare questa anomalia ridicola che è tragica e ridicola, perché siccome agli incurabili c'è una sola autoambulanza, se nel frattempo arriva veramente un caso urgente e grave, l'autoambulanza è in giro per la città con un infermiere e con l'attac del paziente che è in attesa e probabilmente il ricoverato urgente, il codice rosso può morire, quindi è una tragica e comica realtà della nostra sanità. Ecco, quindi questo qui noi lo raccontiamo, Rivellini, non perché sia, come dire, un piccolo episodio di cattiva amministrazione, ma perché è un piccolo grande episodio, perché stiamo parlando di vite umane. Quando si parla di sanità, Rivellini, no? Si parla di persone che soffrono, che devono avere una risposta in tempi urgenti. Ma le chiedo, lei ha sollecitato, ma che risposte ha avuto? Nessuna, perché la sanità in Campania è così al collasso, è così in confusione che questo è solo uno dei tantissimi episodi di mala sanità. Io non sono riuscito ad avere né dall'assessore Sant'Angelo né dal subcommissario Zuccatelli, che mi sembra sia venuto in Campania e stia lavorando come fanno le tre scimmiette, non vede, non sente e non parla, e ripeto, è il mio governo che l'ha mandato, quindi dovrei essere un po' più diplomatico, ma non lo sono quando si parla di sanità. E questa emergenza ridicola non viene risolta, basterebbe prendere un neuroradiologo, basterebbe mettere in collegamento telematico i due ospedali, basterebbe un piccolissimo intervento e questa ridicola e tragica situazione può essere immediatamente risolta. Ecco, però Rivellini, qualcuno potrebbe dire bella scoperta che ha fatto Rivellini, adesso prendiamo un altro neuroradiologo, quindi altro concorso, altra assunzione, magari altro, come dire, clientelismo, perché tanto sappiamo purtroppo come funzionano le cose spesso, non sempre ovviamente in Italia, dico in Italia, non dico in Campania, cioè questo accade dappertutto. Ma ce ne sono di neuroradiologi che potrebbero essere dislocati da un capo all'altro della città, persone che magari in una struttura non fanno proprio a tempo pieno quello che dovrebbero, e quindi sarebbe un ulteriore spreco di denaro, comunque impegnare nuove risorse, oppure c'è la possibilità di spostare il personale secondo lei? Dottor Galullo, è tutto voluto. Nel marasma generale, in una sanità che brucia l'80% del bilancio regionale, circa 11 miliardi di euro all'anno, una finanziaria nazionale, è tutto voluto, perché quando mi risponde l'assessore alla sanità o il presidente Bassolino che la sanità è al collasso, ma il 95% della spesa della sanità è destinata al personale, vorrei ricordare al presidente Bassolino, all'assessore, al subcommissario che ci sono casi ridicoli nella nostra sanità. Ecco, come questo che abbiamo descritto. No, uno ancora più grave che ho denunciato, per mancanza di anestesisti, oggi un anestesista in Campania di solo straordinario guadagna oltre 15.000 euro al mese. E anestesisti e radiologi, ho fatto una denuncia perché avevo scoperto che per una serie di conteggi e di benefit gli anestesisti del secondo policlinico di Napoli, del primo e del secondo policlinico di Napoli, praticamente lavorano 585 giorni all'anno. Lei adesso dirà: Rivellini ha sbagliato, l'anno è di 365 certo. giorni, come fanno a lavorare 585 giorni? Perché al prezzo medio di un'ora di straordinaria, moltiplicati tutti i benefit che loro hanno, praticamente è come se lavorassero 585 giorni all'anno. E purtroppo... E purtroppo in questa voragine, in questo caos che spesso governa la sanità nelle regioni italiane, c'è appunto chi si arricchisce. Vi avevo detto, cari radioascoltatori, all'inizio, misteri e sanità. Sanità e misteri. Perché? perché il consigliere Rivellini, l'eurodeputato Rivellini, ha ricevuto una gradita visita alcune settimane fa, vero Rivellini? Sì, sì, ho ricevuto una gradita visita, sono venuti nel mio ufficio a rovistare fra le mie carte, non hanno preso nulla, ma hanno praticamente messo in mora, se così si può dire, il politico Rivellini, avvertendolo che sono sotto la mira di chi probabilmente in sanità riesce a trarre dei guadagni forse illeciti. E ha interesse ovviamente a intimidirla. Noi siamo qui anche intimidirla non esiste proprio, non esiste proprio, anzi, questo mi dà maggiore forza perché a differenza di altri, guardi, dottor Galullo, e lo dico con orgoglio, posso sembrare poco modesto, ma lo voglio dire con orgoglio, io ogni settimana compro un paio di scarpe nuove, perché giro per la mia regione, giro per la mia città, vado negli ospedali, io ho visitato tutti gli ospedali e le sofferenze dei miei concittadini mi danno la forza per fare queste denunce. Assolutamente sì. Io ringrazio l'eurodeputato Enzo Rivellini per le sue denunce, per essere stato insieme a noi. Grazie a Carmelo Lauricelle in regia ed Elisabetta Fusconi in studio e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.